mi guardi e sorridi, mi chiedi chi sei. Anima inquieta, mi dici, tu dunque lo sai. Tu puoi capirmi e capire vuol dir perdonare ed accettare per questo amore la verità. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha, sono l'amore che non sente pietà. Io sono il vento, se t'accarezzo non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore, sono l'amore, la passione d'amore, qualcosa c'è in me più forte di me. Sono l'aria che talora sospira e che al sol del mattino più dolce si fa. Sono la furia che improvvisa si adira e che va, fugge, va dove andrà non lo sa. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé. Ho traversato il deserto cercando di te, t'amerò, era scritto così, qualcosa c'è in me più forte di me. Più forte di me, più forte.